I cancelli di Mirafiori, le vetrine di Piazza Castello, la tuta blu dell'operaio Fiat, il trench Barberis di una ragazza del centro. Insomma, la Torino operaia è quella capitale del design. Qui la Lega ha più che raddoppiato i propri voti, superando il 12% in tutto il Piemonte. Tagliano le ore, annoiate perché assumono loro a meno costo. Prima si lavorava un po' di più anche come straordinari sabato e domenica. La gente è un periodo che secondo me che adesso non ne può proprio più, che è stufa. Un paio d'anni che voto per la Lega. Il sindacato ormai non è più credibile. Alla fine del primo turno, alla porta 2 di Mirafiori, gli operai si affrettano verso l'autobus. Un pannello annuncia una mostra fotografica sulla strage alla Thyssen. Poco più in là il carroccio sta per aprire la sua sede. Dalla periferia ai portici del centro, ad unire le due facce della città, la sicurezza e il rancore, per dirla col sociologo Aldo Bonomi. Il problema dell'immigrazione è un problema che non è percepito come dicono tanti, ma è un problema reale. Per quanto riguarda le ronde non le vedo così negativamente, non vedo che male possano fare se delle persone vogliono presidiare la loro città. Se lei va a Porta Palazzo di domenica mattina, ha la sensazione di essere nella piazza di Riyadh in un giorno di preghiera, cioè è una cosa veramente terrorizzante. Nel Parco della Surla si spaccia droga dappertutto. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, Torino.